Mezzogiorno di Simone Spezia. Il caso dei Marò. Durante il periodo dell'arbitrato Salvatore Girone tornerà in Italia, la conferma da fonti della Farnesina e poi dal presidente del Consiglio. Il padre dice: sono strafelice. Caivano, l'avvocato della famiglia della piccola Fortuna Loffredo, chiede la riesumazione del corpo di un bimbo di 3 anni morto nello stesso modo, sospetti di una rete di pedofili. Parato il programma nazionale per la ricerca, vale 2 miliardi e mezzo, aerospazio, agricoltura, food e industria 4.0 i cardini del programma. Renzi lancia la campagna per il sì al referendum sulla riforma della Costituzione, annuncia il 12 maggio il voto finale sulle unioni civili, probabile la fiducia. Sono ancora incerte le cause del rogo all'ospedale San Camillo di Roma, nel quale è morto un paziente, procedure rispettate, personale encomiabile, dice il ministro Lorenzin. Stasera in campo Roma e Napoli, prosegue la corsa per il secondo posto, il Leicester di Ranieri guarda la partita del Tottenham, se il Tottenham non vince il Leicester è campione. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24. Su quello che succede in Italia e nel mondo i nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp. Abbiamo anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, se vi volete unire. In apertura dunque il caso dei due Marò. La Farnesina conferma il rientro di Salvatore Girone. Il militare, che si trova ancora nella nostra ambasciata a Nuova Delhi, sarà in Italia durante l'arbitrato internazionale che dovrà stabilire la giurisdizione del complesso caso giudiziario che lo vede protagonista assieme al commilitone Massimiliano Latorre, già rientrato in patria per motivi di salute dopo l'ictus che lo aveva colpito a fine 2014. I due Marò sono accusati di aver ucciso 2 pescatori indiani nel corso di una missione antipirateria al largo delle coste del Kerala nel 2012. Accogliendo la richiesta italiana, il Tribunale dell'Aia ha invitato ora India ed Italia a concordare le modalità del rientro di Girone, che potrà restare in patria per tutta la durata dell'arbitrato. L'ordinanza verrà resa pubblica domani. Se la notizia è vera, sono strafelice, è una notizia meravigliosa, è stato il primo commento del padre del Marò, Michele Girone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla politica con il Presidente del Consiglio che di fatto apre oggi la campagna per il sì al referendum costituzionale di ottobre. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Il Parlamento si è svegliato, è uscito da un incantesimo. Matteo Renzi lancia la campagna referendaria in vista appunto del referendum di ottobre sulle riforme costituzionali dal Teatro Nicolini di Firenze. Sono passati più di 2 anni, dice il Premier, da quando abbiamo preso la responsabilità di guidare il Paese. Le riforme hanno iniziato a realizzarsi, ma sentiamo le parole di Renzi. Si facevano gli appelli alle riforme e le riforme non venivano realizzate. Si chiedeva al Parlamento di lavorare e i provvedimenti in Parlamento erano sostanzialmente bloccati. Si chiedeva di abbassare le tasse e si restò per 6 mesi a discutere di come chiamare la stessa tassa che non veniva eliminata, ma le si cambiava nome da ICI a IMU a TASI a tutti i nomi di questo mondo. L'Italia soffriva una mancanza di credibilità a livello internazionale. A quelli che dicono che la nostra riforma è contro i padri costituenti, prosegue poi Renzi, diciamo che invece stiamo realizzando quello che volevano, che non era il bicameralismo paritario. Con la riforma costituzionale si modifica il Senato come l'abbiamo immaginato. Il referendum è la partita tra chi dice sì e chi dice sempre no. Voglio una gigantesca campagna casa per casa, porta per porta, per vedere se gli italiani vogliono un futuro a testa alta. E come dicevi tu, Simone, c'è anche un aggiornamento sul caso Girone. Il Presidente del Consiglio ha parlato con il Marò e definisce straordinaria la notizia del suo rientro in Italia. Il 12 maggio il sì definitivo alle unioni civili con ricorso probabile alla fiducia. Da segnalare però alcune contestazioni davanti proprio al Teatro Nicolini di Firenze, e il Premier è dovuto entrare da un ingresso secondario perché i gruppi di risparmiatori vittime del salva banche contestavano il Premier. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Siamo dunque, e ci porta anche il collegamento di Elisabetta Fiorito, a questo, alla politica economica che oggi viaggia tra le decisioni di ieri del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, e le decisioni appunto sulle banche, sui ristori e gli obbligazionisti. Non solo il Jobs Act per puntare a maggiore occupazione. Da Palazzo Chigi ricordano come l'intervento del governo sul lavoro sia ad ampio spettro. Anche le misure adottate dal CIPE rientrano allora in questa operazione con lo sblocco delle infrastrutture prioritarie per il territorio italiano. Non solo dunque i 3,5 miliardi di euro per ricerca e cultura nel pacchetto del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ma anche i fondi per la banda larga e poi le risorse stanziate dal CIPE a sostegno delle imprese della crescita. Si tratta di 290 milioni di euro finanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui 40 milioni di euro saranno destinati al rifinanziamento dello strumento cosiddetto autoimpiego nelle regioni del sud, 50 milioni di euro andranno all'autorità portuale di Livorno e i restanti 200 saranno utilizzati dal Ministero delle Politiche Agricole per sostenere i contratti di filiere di distretto. Altro fronte poi quello delle banche. Consumatori insoddisfatti del decreto sugli indennizi dei risparmiatori dei quattro istituti salvati. Il Ministero dell'Economia tuttavia difende il provvedimento, il cosiddetto doppio binario, che prevede indennizzi automatici per poco più della metà dei coinvolti e il ricorso all'arbitrato per gli altri. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra gli stanziamenti del CIPE ci sono i soldi per il Piano Nazionale della Ricerca, che è stato presentato questa mattina. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Aerospazio, Agri-Food, Salute e Industria 4.0, i cardini, le aree di intervento del Programma Nazionale per la Ricerca, un piano che delinea le priorità strategiche della ricerca dei prossimi 5 anni, 2 miliardi e mezzo di euro gli investimenti, 6.000 giovani in più nel sistema della ricerca in Italia. Ma sentiamo il Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini. Sottolineo che mettiamo più 25% di risorse rispetto alla programmazione che era già pianificata e che per legge sarebbe stata assegnata. Si partiva da 1.950 milioni, si arriva a 2 miliardi e mezzo. 6 linee di azione, il capitale umano per il quale è stato stanziato 1 miliardo, quindi più posti per i giovani dottori di ricerca e ricercatori, più sinergia tra pubblico e privato, il sud, l'internazionalizzazione, le infrastrutture e un lavoro sulla trasparenza nell'assegnazione dei fondi e nella qualità della spesa. Basta con i finanziamenti a pioggia e su microprogetti, ha detto il ministro, intervenendo poi sul tema del concorsone della scuola, dopo le polemiche seguite alla decisione del Consiglio di Stato di ammettere anche i docenti non abilitati. L'unico dato di fatto, ha detto il ministro, è un'ordinanza cautelare che riguarda poche persone. Il concorso sta andando avanti regolarmente, tra l'altro oggi c'è la prova di italiano e anche quest'anno la scuola partirà il 1° settembre con tutti gli insegnanti in cattedra. E dal Ministero dell'Istruzione è tutto. Ti ringrazio, grazie ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Molta cronaca nella giornata di oggi, a partire dalla vicenda del Parco Verde di Caivano, della quale si è parlato moltissimo, come avete sentito anche in Melog con Gianluca Nicoletti. Come sapete è stato arrestato un uomo per l'assassinio di una bambina di 6 anni lanciata dal palazzo dopo che avrebbe tentato di resistere alle violenze. Sarà riesumato probabilmente, o almeno questa è stata la richiesta, il corpo di un altro bambino per verificare che non abbia subito anche lui delle violenze. Questo è quello che ha chiesto l'avvocato della famiglia della piccola Fortuna. Proprio con lui parleremo più avanti nel corso della trasmissione. Le procedure di allarme sono scattate nei tempi giusti e già un'ora dopo l'incendio il reparto era di nuovo operativo e tutto sotto controllo. Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel corso di un sopralluogo all'ospedale San Camillo, dove a causa di un incendio un paziente di nazionalità moldava è morto carbonizzato. Il fuoco è divampato intorno alla 00:30 in una camera al secondo piano del padiglione Maroncelli. Il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, ha dichiarato che già nella giornata di ieri è stata ricevuta una relazione scritta dalla direzione dell'ospedale. E anche qua ci torneremo più avanti e parleremo proprio col direttore generale dell'ospedale. Veniamo ad un'operazione contro i furti nei cimiteri. In manette 3 ladri, uno romeno e 2 italiani, e recuperate 70 statue e oltre 30 quintali di manufatti in bronzo pronti per essere fusi. È questo il bilancio dell'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano contro il fenomeno dei furti nei cimiteri proprio nelle province di Milano e Monza. I militari della Compagnia di Corsico hanno arrestato per primo un cittadino romeno senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, che era alla guida di un furgone e non si è fermato ad un posto di blocco. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e fermato. Veneto. Il veicolo guidato dal romeno è risultato rubato a Milano e, ricostruendone il percorso, i carabinieri sono risaliti a una ditta per il commercio di metalli e il recupero di rottame, nella quale sono state trovate decine di statue in bronzo ed altri manufatti con immagini sacre e funerarie. Arrestato il titolare della ditta, un italiano dell'Interland milanese. A Bollate, infine, è stato messo in manette un altro italiano incensurato, sorpreso dal custode del cimitero mentre tentava di allontanarsi con vasi in ottone e rame e lumi funerari divelti dalle tombe. A casa sua sono state poi ritrovate altre due sculture di bronzo e un quintale di cavi di rame. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono in corso in questi minuti gli interrogatori delle persone arrestate giovedì nell'ambito di un'operazione antiterrorismo e stanno emergendo dei dettagli. Uno degli arrestati, Abderrahim Mutaharrik, dice: vedendo le immagini dei bambini martoriati volevo andare in Siria ed aiutare la popolazione e non arruolarmi nell'esercito dell'ISIS. Così appunto l'uomo avrebbe detto, questo l'ha riferito il suo difensore, l'avvocato Francesco Pesce, spiegando che non avrebbe organizzato un attentato in Italia, dove vive da 16 anni. Parliamo di immigrazione adesso. Questa mattina l'Eurostat ha diffuso i dati sui minori non accompagnati. Una settimana fa esatta, la polizia di frontiera di Tarvisio ha trovato dei ragazzini afghani che camminavano nei pressi dell'autostrada da soli. Due di loro avevano appena 10 anni. È solo una delle mille storie di bambini e ragazzi stranieri che arrivano in Italia senza genitori. Oggi Eurostat ha diffuso dei dati davvero allarmanti. Tra i migranti richiedenti asilo in Europa ci sono circa 88.000 minori non accompagnati. Numeri record se pensiamo che tra il 2008 e il 2013 questo dato è stato pressoché stabile tra gli 11 e i 13.000. Nel 2014 è raddoppiato sino a 23.000 minori e ora nel 2015 è quasi quadruplicato. E la maggior parte di questi minori non accompagnati, rispetto a tutto il gruppo dei minori richiedenti asilo, si è registrato in Italia. Alla fine del 2015 c'erano 12.000 stranieri non accompagnati ospitati nelle strutture d'accoglienza in Italia. Altri 6.000 risultavano irreperibili dopo essere fuggiti da quelle stesse strutture. Ma questa è ancora un'altra storia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo negli Stati Uniti adesso. And with that I just have two more words to say. Obama out. Ho solo altre due parole da dire. Obama out, è quello che ha detto il presidente americano alla cena di commiato dai corrispondenti alla Casa Bianca. Subito dopo Obama ha accompagnato le parole di saluto portandosi due dita alle labbra e lasciando cadere il microfono, evocando così il gesto di Kobe Bryant, che nel giorno del suo ritiro ha detto Mamba out. Nel discorso di commiato ai giornalisti Obama ha ringraziato dicendo: sono davvero orgoglioso di ciò che avete fatto, è stato un onore e un privilegio lavorare a fianco per rafforzare la nostra democrazia. Intanto fanno discutere invece queste parole. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. La voce è quella di Donald Trump, candidato alle primarie repubblicane per la Casa Bianca, che ha accusato la Cina di stuprare gli Stati Uniti con la sua politica commerciale. Nel corso di un comizio in Indiana, il miliardario newyorkese ha dichiarato che Pechino è responsabile del più grande furto della storia del mondo. Veniamo al calcio e anche qua però partiamo da qualche parola in inglese. I want to meet my mother, 96 years old. I'd like to go to have a lunch with her. E questo è Ranieri che oggi sarà a pranzo alla mamma, Carlo Genta, eccoci. Sì, a pranzo della mamma, come è giusto che sia, ieri dopo aver pareggiato 1-1 con lo United e aver virtualmente conquistato il titolo che potrebbe arrivare questa sera in contumacia, come poi diremo. Ha spiegato in conferenza stampa che insomma c'è mamma che ha 96 anni, ha piacere di pranzare con lui, quindi ha preso un volo, è andato a trovarla, pranzo insieme e poi tornerà questa sera in Inghilterra proprio nei momenti in cui si chiuderà il derby di Londra, tra l'altro storicamente molto acceso tra Chelsea e Tottenham. Se il Tottenham non vince, il Leicester festeggia il titolo di Inghilterra. Quindi in sostanza basta un pareggio a Ranieri per conquistare il titolo. Tra Tottenham e Chelsea. Assolutamente. Quindi i nostri riflettori sono puntati là, sono puntati anche su le partite di campionato italiano di questa sera, Carlo, no? Sì, perché aspettiamo l'ultimo verdetto, c'è cioè questo confronto a distanza tra la Roma e il Napoli per il secondo posto, il Napoli ha due punti in più della Roma. E c'è un turno che dovrebbe essere piuttosto semplice per entrambe. La Roma gioca sul campo del Genoa, il Napoli riceve l'Atalanta, due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, quindi possiamo anche immaginare che le distanze rimarranno invariate in attesa delle ultime due partite di stagione. Intanto sì, tiene banco il processo alle milanesi, certo. ieri disastrose, un punto diviso due, quello abbastanza scandaloso conquistato dal Milan in casa 3-3 con il Frosinone, mentre l'Inter ha perso netto e secco sul campo della Lazio 2-0 e quindi Mancini e Brocchi sul campo, sul banco degli imputati più che sul campo. Va bene, vedremo come andrà. Insomma, comunque il campionato è sostanzialmente finito. Per quanto riguarda il secondo e terzo posto, ricordiamo anche agli ascoltatori che vale una cinquantina di milioni di euro per le squadre, la tantissimo, differenza, no? Vale tantissimo secondo posto, c'è una grande differenza tra arrivare secondo e arrivare terzo. Il Napoli ha tenuto queste posizioni per lunghissimo tempo, la Roma sta provando la rimonta, però è chiaro che la differenza è abissale, perché ballano tanti soldi e ballo un turno preliminare nel quale le italiane normalmente non fanno scintille. Allora, grazie a Carlo Genta, che ritroviamo come sempre alle 14 in Tutti i Convocati. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico come sempre nella seconda parte della trasmissione. Parleremo con Angelo Pisani, che è l'avvocato della famiglia della piccola Fortuna Loffredo. Ha chiesto la riesumazione del corpo di un altro bambino e parliamo della vicenda di Parco Verde di Caivano, della vicenda terribile di Parco Verde di Caivano, dove qualcuno già parla di un'ipotesi di rete di pedofili. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del caso dei Marò. Salvatore Girone tornerà in Italia in attesa degli esiti dell'arbitrato. Abbiamo parlato del programma nazionale per la ricerca varato oggi, 2,5 miliardi del Presidente del Consiglio Renzi, che lancia la campagna per il sì al referendum sulla riforma della Costituzione. E abbiamo parlato, come avete sentito, anche di calcio e di migranti, oltre che di Stati Uniti. Tra l'altro, del discorso di Obama di questa notte si tornerà ad occupare Mario Platero più avanti in America 24. Voglio salutare Angelo Pisani, che è avvocato della famiglia Loffredo. Avvocato Pisani, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Allora, lei ha chiesto la riesumazione del corpo di un altro bambino là a Parco Verde di Caivano, che è morto in circostanze simili a quella della piccola Fortuna. Sì, purtroppo sono trascorsi circa 3 anni, ma penso che sia il caso sia di esumare il corpo per fare ulteriori indagini, eventualmente anche medico-legali e cliniche, sul corpo di questo povero bambino, ma soprattutto chiediamo che ci sia un intervento ulteriore dei RIS, così come è avvenuto per Yara, per tutti i bambini italiani, dove le indagini si sviluppano a 360 gradi. Vogliamo che vengano fatte anche per i bambini napoletani e che si riesca a capire quali sono le coincidenze e i nessi tra la morte del piccolo Antonio, la piccola Chicca e tanti altri bambini che vengono abusati ogni giorno in quei luoghi, dove siamo appena all'inizio di una pagina di orrori che saranno tanti e dolorosi anche nei prossimi giorni. Avvocato, mi sembra di capire che quello che lei sta delineando nel parlarci di tutto questo è l'ipotesi addirittura di una rete. Sicuramente possiamo parlare di una rete di pedofili, perché ormai abbiamo dei numeri tali da giustificare questa amara e grave dichiarazione. Ci sono adulti arrestati, ci sono altrettanti bambini abusati, violentati, 2 bambini morti. Non so le istituzioni cosa aspettano per intervenire. È tutte in quella zona, tutte in quell'area. Tutte in quei palazzi, nei vari palazzi, e purtroppo ho la sensazione che nei prossimi giorni avremo delle notizie ancora più gravi. Senta, avvocato, ci aiuta a capire una cosa che probabilmente tutti si stanno chiedendo. È questa rete di omertà che ha circondato la vicenda. Cioè, sembra che molta gente in realtà sapesse o quantomeno avesse una chiara percezione di quello che stava avvenendo. Che cosa succede? Ma più che omertà, io direi ignoranza. Tanta ignoranza, tanto degrado e purtroppo tante responsabilità. Abbiamo un mostro in galera, ma dobbiamo dirlo a chiare lettere, non è l'unico mostro, quindi tanti non hanno parlato per difendere le proprie posizioni, per nascondere le proprie responsabilità, lì purtroppo le regole non vengono rispettate, lo Stato non esiste né è riconosciuto dai cittadini, quindi ovviamente quando non c'è uno Stato presente non c'è neanche poi, ecco, tra virgolette, la complicità dei cittadini con lo Stato per affermare la legalità. Questo è ancora più grave quando si tratta di violenze e crimini sui bambini. Io penso che lì ci sia in atto una calamità criminale sui minori, dove lo Stato deve, anche con una normativa d'emergenza, con una legge ad hoc, intervenire per bonificare questi territori che non appartengono solo a Caivano, ma appartengono a tante periferie di tante città d'Italia. Cosa intende per una legge ad hoc, avvocato? Ma sicuramente per questo tipo di crimini dobbiamo prevedere a questo punto anche una castrazione chimica, un metodo per evitare che gli adulti possano abusare e rovinare la vita di tanti bambini che poi quando crescono e nascono diventano genitori a loro volta traumatizzati, non in grado di educare i loro figli. Quindi se non mettiamo un punto fermo a questa moda criminale di abusare dei bambini, ci ritroveremo domani una società ancora più malata. Senta, avvocato, per rimanere sul tema del silenzio, ieri il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha lanciato questo appello dicendo chissà parli. La sua sensazione è che qualcosa dopo l'arresto di quest'uomo possa cambiare e stia cambiando oppure no? Purtroppo quando la gente non riconosce lo Stato, perché lo Stato è assente in tutti i giorni, è difficile poi andargli a chiedere di collaborare. Quindi le istituzioni devono intervenire e diventare amiche, diventare presenti per poter ottenere la collaborazione delle persone. Là c'è bisogno di una rivoluzione culturale. Purtroppo molta gente non ha parlato, e questo è molto molto grave, lo hanno fatto i bambini al posto degli adulti. Però al di là di questo dobbiamo anche investire in tecnologie e mettere a punto le indagini più moderne, così come è avvenuto per il caso di Ara e per tanti casi di crimini che conosciamo e vediamo in TV, e fare le stesse indagini anche in questi territori, perché bisogna intervenire subito e estirpare questi tumori purtroppo che danneggiano i minori e quindi danneggiano il futuro della nostra società. Come, dal punto di vista giudiziario, come si procederà nelle prossime ore, avvocato? Ci dà un'idea di agenda? Ma noi stiamo svolgendo delle indagini difensive per conto dei familiari delle vittime. E le forze dell'ordine stanno facendo un buon lavoro insieme alla magistratura per accertare le responsabilità, perché poi un conto è indicare i responsabili, altro conto è sostenere un processo e trovare le prove per il dibattimento. Quindi è giusto che la magistratura faccia il suo corso e le sue indagini, ma in caso di crimini così efferrati avverso i minori, e in quel posto purtroppo ce ne sono tanti, alcuni già accertati. Ma quanti sono in tutto, avvocato? C'è un numero? Ad oggi abbiamo 2 bambini morti, abbiamo 4 bambine abusate e violentate con altrettante persone arrestate per quei reati, e ce ne sono tanti altri in zona, nei palazzi circostanti, che subiscono gli stessi abusi e corrono gli stessi pericoli. Quindi non è finita con l'arresto del Caputo, che sicuramente è un pervertito, ma dobbiamo vedere chi ha ucciso Chicca, quanti erano, chi sono gli altri responsabili. Cioè, c'è tanto e tanto tanto ancora da vedere, purtroppo non saranno belle scene. La ringrazio, grazie. Prego, ad Angelo Pisani, avvocato della famiglia Loffredo, per essere stato con noi e anche per averci offerto questo quadro terribile. Un paio di notizie prima di andare in pausa e poi ritrovarci per sentire cosa succede sui mercati. La prima notizia arriva dall'Agenzia delle Entrate, la quale annuncia che parte oggi la fase 2 del 7.30 precompilato. Dal primo pomeriggio fino al 7 luglio i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 7.30 già compilato in tutto in parte dal fisco e trasmetterlo all'agenzia direttamente dal proprio PC. A ricordarlo è stata proprio l'Agenzia delle Entrate che sottolinea come nella fase 1, dal 15 aprile ad oggi, gli accessi per la sola visualizzazione sono stati 1.800.000, il 16% in più rispetto all'anno scorso. Quindi adesso parte, la cosa importante è che parte la fase 2, quella nella quale appunto si può modificare. E l'altro è un tweet del Papa all'indomani della festa del 1° maggio, dice: il problema del lavoro è grave per gli alti livelli di disoccupazione giovanile e perché a volte il lavoro stesso non è dignitoso. Così il Papa in un messaggio che è sostanzialmente, anche se cade il 2 di maggio, per il 1 maggio. Noi adesso ci fermiamo, andiamo sempre a sentire cosa succede sui mercati e nella seconda parte della trasmissione troveremo il direttore dell'ospedale San Camillo, il direttore generale dell'ospedale San Camillo di Roma, dove, come vi abbiamo raccontato, è un'altra vicenda di cronaca, è andata a fuoco una stanza, è morto un paziente e le cause non sono al momento per nulla chiare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. A microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il caso dei Marò. Durante il periodo dell'arbitrato, Salvatore Girone tornerà in Italia. La conferma è arrivata direttamente dal Presidente del Consiglio. Il padre dice: sono strafelice. Caivano, l'avvocato della famiglia della piccola Fortuna Loffredo, lo avete sentito poco fa, chiede la riesumazione del corpo di un bimbo di 3 anni, morto nello stesso modo, e ci sono sospetti che ci sia una vera e propria rete di pedofili. È stato varato il programma nazionale per la ricerca, vale 2 miliardi e mezzo, aerospazio, agricoltura e food, industria 4.0 sono i cardini. Ancora incerte le cause del rogo all'ospedale San Camillo di Roma, nel quale è morto un paziente. Procedure rispettate di personale encomiabile, dice il ministro Lorenzin. Come già vi dicevo, ne parleremo tra un attimo proprio con il direttore generale dell'ospedale per farci dare qualche ulteriore chiarimento. Per il calcio, stasera sono in campo Roma e Napoli, prosegue la corsa per il secondo posto e l'Ester di Ranieri guarda intanto alla partita di questa sera del Tottenham. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo adesso per parlare di quello che è successo, diciamo, nella notte tra sabato e domenica all'ospedale San Camillo di Roma, dove si è sviluppato un incendio ed è morto un paziente. Abbiamo in linea con noi Antonio D'Urso, che è il direttore generale dell'ospedale. D'Urso, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Vi siete fatti un'idea di cosa possa essere avvenuto? No, sappiamo, siamo anche particolarmente sconvolti per quello che è accaduto e per la tragica morte di un paziente che si era affidato alle nostre cure. No, sappiamo che l'incendio si è sviluppato 9 minuti dopo la mezzanotte in una stanza di degenza e che gli infermieri sono accorsi immediatamente, ma subito dopo accorsi il fuoco era di entità tale da coprire e fare molto fumo, per cui gli infermieri nonostante abbiano usato immediatamente estintori e l'impianto a parete, impianto idrico di spegnimento a parete, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Quindi al momento sapete solo questo, da quel che il ministro Lorenzin dice, procedure rispettate, e lei ha detto nelle ore scorse che insomma gli impianti funzionano. Sì, no, quella palazzina è una palazzina a norma con certificazione degli impianti elettrici, termici, idraulici, ha subito il collaudo, è stato completato un anno fa e tra l'altro la palazzina ha tutti i sistemi di rilevazione incendi, di compartimentazione che poi hanno funzionato in sostanza, cioè nel senso che il rilevatore di fumo o di quel che è o di incendio, esatto, di temperatura ha funzionato e ha richiamato l'attenzione degli infermieri. Tant'è che le dico che l'incendio nella sua, diciamo, parte più drammatica è limitato a una stanza di degenza. Poi gli effetti evidentemente si sentono un po' al piano, ma fondamentalmente l'effetto incendio è limitato ad una stanza di degenza. Non ci sono gli spruzzini d'acqua, quelli a soffitto là, no? No, ma negli ospedali la modalità di spegnimento incendi prevista è la presenza di estintori, che nel caso di specie sono stati usati, e poi l'impianto idrico di parete che agisce, appunto, le cosiddette manichette. Infatti il vetro è stato cotto e la manichetta ha erogato l'acqua nel quantitativo necessario. Però mi scusi D'Urso, se tutto questo è stato rispettato, se sono state rispettate le procedure, la palazzina era a norma, un'idea ve la sarete fatta di quello che può essere successo? Guardi, la risposta che le do è che c'è un'indagine dell'autorità giudiziaria e credo che questo sia uno degli elementi che il magistrato dovrà vagliare. Naturalmente. Perché indubbiamente il fatto di aver perso il paziente è un fatto che ci riempie di dolore, insomma, di disorientamento, perché non capiamo com'è che nonostante tutte le procedure siano state rispettate, poi nei fatti il paziente sia morto. La ringrazio, grazie ad Antonio D'Urso, che è direttore dell'ospedale San Camillo di Roma, per essere stato con noi, averci dato qualche spiegazione, quelle che sono possibili evidentemente al momento. Ci occupiamo adesso di contrabbando di gasolio, c'è stata un'operazione questa mattina, sentiamo. L'accusa è quella di aver evaso il fisco per 11,5 milioni di euro, introducendo sul territorio nazionale quasi 13 milioni di litri di olio lubrificante, poi venduto ad aziende di trasporto come gasolio per autotrazione. 27 i provvedimenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Trani su disposizione della magistratura con la collaborazione polacca. 19 le persone finite in manette, tra loro anche stranieri. Gli arrestati sono accusati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere transnazionale dedita al contrabbando di gasolio, alla frode in commercio e alla truffa ai danni dello Stato. Perquisizioni e sequestri stanno interessando oltre 50 società. Altre 47 persone inoltre sono indagate a piede libero. Le indagini della Procura di Trani hanno accertato che gli acquirenti erano ignari di comprare un prodotto diverso dal gasolio, ma lo hanno fatto spinti da un prezzo vantaggioso offerto loro da compiacenti distributori di carburante. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, come sapete l'edizione del lunedì di Effetto Giorno è un po' più corta perché dalle 13.45 alle 14 c'è come sempre la nostra rubrica sull'autotrasporto, appunto, quindi ci fermiamo. Ci sentiamo oggi Mario Platero con America 24 che ci parlerà tra l'altro appunto di questa cena del presidente Obama con i corrispondenti che seguono la Casa Bianca e poi ci ritroviamo alla fine alle 13.44 circa per i saluti.